Hello everybody, welcome on ZZ Radio. And yes, this evening we receive here three musicians. Is Roger Sterner, Fou Lucifer Fou, and so we're gonna play more music now, and I'm just waiting for them to prepare their gear, and then yeah, we'll be ready for some live music. And yes, that's ready. Ya grand mayel kamba la bou day moy mor kware I kware ino tat Thank you. natura, cocaína. pensare a te nella macchina grigia. Ho dimenticato il tuo nome. Ho dimenticato il tuo nome. Ho dimenticato il tuo nome. Thank you. pompato il sangue grey. Ti ho pompato la vita intera. Non è quello che credi. Non è quello che credi. Non è quello che credi. Me ne frego. Me ne frego, senti. Me ne frego. Me ne frego, senti. Allungato sullo sdraio, carne tostato al sole, si lucida il manico, sbriciando ragazzine, così prepara carogna, così prepara carogna, è piccolo non hai visto. quattro di notte e sgozzarti. Tu ti vedrai presto sfumato sul rogo. Così crepa la carogna, così crepa la carogna. E piccolo l'hai visto? Che così creperà il ricco. Così crepa la carogna, così crepa la carogna. E piccolo l'hai visto? Che così creperà il ricco. Che così creperà il ricco. Che così creperà il ricco. Che così creperà il ricco. Che così creperà. Dein Schwarte, meine Schwarte, deine Schwarte. Thank you. Christian mi sciocchiolto. Lerschen auf Wasser. Oh, der Strand. Oh, der Sommer. Das Streifen gewisser von Gefühlen. Mein Schwarter. Meine Schwarte, meine Schwarte, deine Schwarte, meine Schwarte, deine Schwarte. Thank you. We'll be right back.

problème de volume, j'entends rien à ce que je fais. Ok. C'est ici Régis Turner en direct du sommeil. Thank you. We'll be right back. C'était un petit peu trop. Voilà. Et ben. Une autre alors, du coup. Une autre. Un truc. Il faut que je parle dans le micro, sinon ça marche pas. J'avais dit ok. Pour. Voilà. Comme ça, vous avez l'intégralité du spectacle. mais je sais pas. Alors. Oui, alors. Il faut de la pédale et voilà. Très bien. The people. Thank you. que je crois qu'on a fait un tour d'horizon du sommeil. Prochaine sieste, fou Lucifer fou. Thank you. Okay. Still on ZZ Radio, and now it's time for Fu Lucifer Fu Sophie from Clermont-Ferrand. Yes, we carry on this great evening all together with amazing music. Here we go. Smooth, smooth, smooth, smooth. Thank you very much to Lucifer for this amazing set. And yeah, we will play you more music. And thank you, stay tuned tonight on ZZ Radio. Yeah, thank you everybody for this wonderful evening. Thank you. Absolutely wrong. While we're waiting give and take, nothing left to do. When you're begging for a crumb, nothing left to do. When you've got to go on waiting. If you're squeezed for information, that's when